Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È evidente che dobbiamo fare qualcosa come forze politiche all'interno del Parlamento. Io rispetto quella che sarà la decisione del Parlamento, ma sicuramente sarà importante intervenire dal mio punto di vista. Lo ha detto, care ascoltatrici e cari ascoltatori, oggi il ministro della giustizia Bonafede a proposito del delitto di Caivano, dell'uccisione di Maria Paola Gaglione da parte del fratello, perché voleva amare con libertà un ragazzo che era nato donna, ma che appunto si sente e vuole essere un ragazzo. Poi torneremo su questa storia. Bonafede ha detto che a livello di Parlamento effettivamente bisogna intervenire sull'aggravante che ancora non esiste di omotransfobia, perché esiste quella per l'aggravante razziale, razzista, l'aggravante per motivi religiosi, e effettivamente manca soltanto questa. Torneremo su questa orribile vicenda. Vi porterò poi ancora a cercare di comprendere che opinione avere sul taglio dei parlamentari, il referendum che ci sarà il 20 e 21 settembre. Ci saranno ancora, come la scorsa settimana, due esponenti politici dei due schieramenti opposti, nel senso del sì e del no, così vi farete voi tranquillamente una vostra idea. Poi tornerà il presidente della regione Piemonte Cirio, perché vi ricordate che venerdì è stato qui effetto notte, a spiegare l'ordinanza che aveva emesso per obbligare le scuole alla misurazione della temperatura di ragazze e ragazzi. Il Ministero dell'Istruzione oggi, come ventilava già in quei giorni, ha impugnato questa ordinanza, e quindi Cirio ci dirà quali sono poi le sue motivazioni e anche come intende procedere. Per le vostre riflessioni, commenti sulle notizie più importanti della giornata e su queste che in parte approfondirò con gli ospiti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, oppure il numero per i WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Partiamo subito. L'epidemia di Covid-19 in Italia: aumentano i tamponi, crescono i positivi, nelle ultime 24 ore 1229 nuovi contagi e 9 morti. E il Comitato Tecnico Scientifico avvia ulteriori verifiche sull'ipotesi della riduzione della quarantena. Febbre e test, il governo contro Piemonte e Sardegna, impugna le ordinanze del Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola e della Sardegna sull'obbligo di test all'ingresso. I funerali di Maria Paola uccisa dal fratello, manifesto di Ciro fuori dalla chiesa di Caivano, il mio cuore è con te, dice il parroco alle due famiglie ai funerali, chiede ora basta odio. Medio Oriente, la Casa Bianca firma l'accordo tra Israele, Emirati e Bahrain, il presidente Trump parla di giorno storico. Conte agli studenti di Norcia: se falliamo sul recovery fund, dice, mandateci a casa. Intanto a Genova arrivano i banchi della discordia. Raccomandate in ritardo e niente consegna dal postino, per poste scatta la multa, ma il lite con l'antitrust. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus in Italia. Sono 1229 i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di ieri, ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati, cioè 80.517 contro i 45.309 di ieri. Le vittime sono state 9 contro le 14 di ieri. Quindi questi dati del Ministero della Salute. I casi totali sono così saliti di contagi a 289.990, i morti in Italia 35.633. E sulla possibile riduzione della quarantena, il Comitato Tecnico Scientifico, che oggi si è riunito, ha fatto sapere di voler procedere con ulteriori approfondimenti e confronti con le organizzazioni internazionali e gli altri paesi, e anche con l'OMS. La linea di prudenza, sempre secondo quanto si apprende, sembrerebbe inoltre dettata dall'andamento dell'epidemia alla luce dell'apertura delle scuole. E a proposito di scuola, a Genova il preside smentisce la vicenda dei ragazzi costretti in ginocchio perché senza senza banchi, l'immagine che ha fatto il giro di tutti i social e i media, e il Ministero dell'Istruzione ha impugnato l'ordinanza della Regione Piemonte al centro delle polemiche dei giorni scorsi, come vi dicevo, che obbliga le scuole a verificare la temperatura degli studenti e alle famiglie di certificarla. Ne avevo parlato, come vi dicevo, qui a Effetto Notte col presidente del Piemonte Cirio lo scorso venerdì, e oggi in questa puntata torna, insomma, a rispondere a questa impugnazione. Inoltre, l'Avvocatura dello Stato ha depositato l'atto di impugnazione dell'ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da ieri, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata che non si siano presentati all'imbarco con una certificazione di negatività al Covid-19. Quindi l'Avvocatura dello Stato impugna anche questa ordinanza, perché il mancato rispetto dell'articolo 16 sulla libera circolazione delle persone è la ragione fondamentale di questo ricorso depositato al TAR della Sardegna. Sul fronte internazionale, Israele è ancora il paese più a rischio e si torna in lockdown, ma da venerdì. Quasi 5.000 contagi nelle ultime 24 ore, un vero e proprio record in Israele, che diventa primo paese al mondo per infezioni in rapporto al numero degli abitanti. 1.141 le vittime da inizio pandemia, una seconda ondata che costringe il governo di Netanyahu a decidere un lockdown di almeno 3 settimane, che scatterà alle 14 di venerdì al ritorno del premier da Washington. Nuove restrizioni entreranno in vigore anche in Giordania da giovedì per le prossime 2 settimane, tra queste la sospensione delle preghiere nelle moschee e nelle chiese in tutto il paese. E intanto Hong Kong, che dall'inizio di luglio sta affrontando il terzo ciclo dell'epidemia, ha completato ieri sera il suo programma di screening di massa lanciato 2 settimane fa, che ha coinvolto quasi 1.800.000 cittadini. In Europa l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un allarme: ci sarà un aumento dei decessi di Covid tra ottobre e novembre come conseguenza dei contagi di oggi. E nel mondo le morti legate al coronavirus superano quota 925.000. Sul fronte vaccino, infine, la Germania fa sapere che non sarà disponibile per molte persone prima della metà dell'anno prossimo, sottolineando che la sicurezza del farmaco è la priorità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Lockdown che in Israele scatta venerdì, anche perché il primo ministro Netanyahu è a Washington, poiché in queste ore alla Casa Bianca c'è stata la firma degli accordi tra Israele, Emirati e Bahrain. Un giorno storico, l'ha definito Trump, e poi ne parleremo in un'analisi per capire, insomma, qual è la portata effettiva di questo accordo. Ed è stato adesso per passare al delitto di Caivano, è stato Don Maurizio Patriciello, già prete simbolo nella battaglia contro la terra dei fuochi, a pronunciare l'omelia a Caivano ai funerali di Maria Paola Gaglione. Campana distesa e un lungo applauso hanno salutato per l'ultima volta Maria Paola Gaglione, la ragazza di Caivano morta in scooter mentre era inseguita dal fratello Michele Antonio, che non accettava la relazione di Maria Paola con Ciro, il suo compagno trans. Correvamo solo verso la nostra libertà, il mio cuore sarà sempre lì con te, ti amerò oltre le nuvole, scrive Ciro nel suo striscione di addio esposto davanti alla chiesa. Basta odio, dice Don Maurizio Patriciello durante il funerale. È un momento di grande tristezza, preghiamo per Paola. Secondo quanto emerso sino ad ora, mentre viaggiava da Caivano ad Acerra sullo scooter assieme al compagno, Maria Paola è stata inseguita e speronata dal fratello ed è morta dopo essere caduta dal motorino. Ciro, nello schianto, è rimasto ferito. Il fratello della ragazza è in cella per omicidio preterintenzionale. Secondo la famiglia Gagliano, Michele era uscito per convincere la sorella Maria Paola a rientrare a casa, ma, dicono, non l'ha speronata. È stato un incidente. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci torneremo su questa vicenda. Da Caivano a Norcia, dove è arrivato oggi il presidente del Consiglio Conte, se falliamo su Recovery Fund avete il permesso di mandarci a casa, ha detto agli studenti. Una visita, una promessa e alcune polemiche. Il premier Giuseppe Conte visita Norcia, promette che i soldi in arrivo dall'Europa saranno utilizzati per la ricostruzione, parla agli studenti. Il piano Next Generation EU è un progetto per voi. Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa. E sul rimpasto chiesto dal PD risponde così. Rispondo col fatto che siamo concentrati sul lavoro. Frena anche Luigi Di Maio. Il rimpasto non risolve i problemi. La gente gente vuole lavoro. La visita di Conte a Norcia viene però criticata da Fratelli d'Italia, recita più parti in commedia. Prosegue la campagna referendaria. Di Maio parla di un risparmio di 500 milioni di euro nei 5 anni, ma nel PD si sfila per Carlo Padoan, che voterà no al taglio dei parlamentari. Sulle regionali, centrodestra compatto, mentre PD e 5 Stelle alleati solo in Liguria. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo ancora sulla politica. I viaggi di Radio 24. Nuovo appuntamento con le regioni al voto in vista dell'apertura delle urne di domenica. Andiamo adesso in Liguria. La Liguria è l'unica regione nella quale Movimento 5 Stelle e Partito Democratico presentano un candidato comune. Ferruccio Sansa, 52 anni, appoggiato anche dalla sinistra di Linea Condivisa e da Europa Verde. La strada che ha portato all'accordo, arrivato quasi in extremis, è stata tortuosa tra strappi e ricuciture. Tocca a Sansa quindi tentare l'impresa, conquistare la regione governata da Giovanni Toti, 52 anni e giornalista pure lui, in campo per il bis. Oltre al partito che ha fondato nel 2019, Cambiamo, Toti è sostenuto dal centro-destra al gran completo, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di Centro, una compattezza che manca al centro-sinistra con Aristide Massardo, professore universitario. Italia Viva infatti corre da sola, e corre da sola pure l'ex leader ligure dei 5 Stelle, Alice Salvatore, già candidata presidente nel 2015, che ha lasciato il movimento dopo l'accordo con il PD. La campagna elettorale è scivolata sui temi caldi, a partire dalle emergenze infrastrutturali. Il ponte sul Polcevera è stato ricostruito, ma i lavori lungo le autostrade rivelano l'inadeguatezza della rete, così come i collegamenti ferroviari. La Liguria non ha l'alta velocità. Lo scontro più acceso però è sulla sanità. Toti rivendica la buona gestione dell'emergenza, per i rivali è stata inadeguata anche a fronte del caso La Spezia, dove da giorni si registra un'impennata dei contagi e dove le scuole non hanno riaperto. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi tra poco tornerò sul tema del referendum con due esponenti politici. All'estero adesso, Stati Uniti, un tribunale d'appello federale ha tolto lo status di immigrati legali a circa 400.000 persone negli Stati Uniti, aprendo la porta all'amministrazione di Donald Trump per un'espulsione di massa. La Corte ha stabilito che l'amministrazione ha agito nell'ambito della sua autorità nel porre fine allo status di protezione temporanea che ha permesso a centinaia di migliaia di immigrati di vivere e lavorare legalmente in America, a volte per decenni, dopo essere fuggiti da conflitti o disastri naturali nei paesi d'origine. Ora invece, secondo questo tribunale d'appello federale, sono rimpatriabili se non lasciano volontariamente gli Stati Uniti. Il provvedimento partirà da marzo 2021 per alcuni paesi e da novembre per altri. E a proposito di ignoranza e degrado per quanto riguarda la violenza sulle donne per esempio, qui smentisce questo cliché. Il club dello stupro classista è stato definito in Gran Bretagna, shock in un ateneo, uno degli atenei più prestigiosi del Regno Unito, vanta 188 anni di storia con tanto di motto tratto dai salmi, ma uno scandalo rischia di gettare un'ombra di vergogna irreparabile sull'università di Durham. Gloria accademica del nord dell'Inghilterra, un gruppo di studenti maschi neoiscritti, che la stampa britannica definisce posh, cioè di buona famiglia, sono stati pescati a scambiarsi messaggi in una chat sulla promozione di una sorta di caccia alle colleghe più povere, messe in palio come per scommesse in un diluvio di richiami sessisti, classisti e persino di riferimenti espliciti allo stupro, almeno a parole. L'idea iniziale, dicono i giornali, è di dar vita a una competizione interna, vince chi riesce a portarsi a letto la ragazza più povera del campus. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. L'uomo che ha ucciso a Como Don Roberto Malgesini sarebbe un senzatetto di origini straniere con problemi psichici. Il sindaco di Como Mario Landriscina annuncia il lutto cittadino. Don Malgesini nella città era il prete degli ultimi, non aveva una parrocchia, ma la sua pastorale era quella dell'assistenza ai bisognosi. Portava la colazione ai senzatetto e ai migranti, assisteva le situazioni di marginalità, viveva nella parrocchia di San Rocco a pochi passi dal punto dove è stato accoltellato. Arrestato Johnny Lo Zingaro, il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto appunto come Johnny Lo Zingaro, scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalle forze di polizia. Mastini ha spiegato di essere fuggito per proseguire la sua relazione sentimentale e ha riconosciuto di aver fatto una fesseria, come ha detto. E poi ci sono nuove segnalazioni dal mondo bancario nell'inchiesta milanese sui presunti fondi neri della Lega, partita dal caso Lombardia Fincommission. Riguarderebbero operazioni sospette da parte di imprenditori con controparte o la Lega o società riconducibili ai contabili finiti ai domiciliari. Questa è quell'aggiornamento. E poi scontro tra antitrust e Poste Italiane. Il nodo del contendere sono i tempi delle raccomandate. Migliaia di avvisi di giacenza lasciati nelle cassette postali nonostante che il destinatario sia in casa. Tra gennaio 2018 e i primi mesi del 2020 sono 2500 i reclami. Il postino non suona al citofono, lascia l'avviso e costringe il malcapitato cliente a recarsi all'ufficio postale per avere la sua raccomandata. L'antitrust ha completato l'indagine scatenata da innumerevoli segnalazioni, 60 solo quelle ricevute dall'autorità in pochi mesi. La conclusione è stata una multa da 5 milioni di euro a carico di Poste Italiane per condotta commerciale scorretta, il massimo della sanzione per fatti ritenuti gravissimi a carico dei consumatori. Numerosi casi di avvisi di giacenza lasciati a persone disabili costrette a casa, fenomeno che è aumentato dopo la diffusione del coronavirus. L'autorità ha trovato conferma ai sospetti negli stessi report interni acquisiti dall'azienda, dai quali emergono percentuali di mancata consegna delle raccomandate a fronte di avvisi di giacenza, in alcuni casi fino al 40% dei volumi da consegnare. Poste Italiane respinge come infondate le accuse e annuncia ricorso al TAR. Laura Serafini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, direi con questo di chiudere questa sintesi della giornata per adesso passare agli approfondimenti con gli ospiti di alcune delle notizie che vi ho raccontato. 349-238-6666, il numero per i WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo già diversi messaggi, per esempio questo, vediamo se riesco a recuperare. Un po' difficile in questi giorni con i WhatsApp. C'è un qualche problema, ecco, non riesco ad aprirli, così ieri anche non sono riuscita a rispondervi. Tra poco vediamo se si risolve. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi naturalmente, ed è il momento di proseguire in questi 60 minuti come sempre ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, dei vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Vediamo adesso se riesco ad aprire questo messaggio. Ecco, è di Tonino da Civitavecchia, dice: la tragedia della povera Maria Paola è avvenuta in un contesto di omofobia dove la violenza del fratello ha dato sfogo ai pregiudizi di genere presenti ancora in molti italiani. Sì, proprio ancora in moltissimi italiani, e non è soltanto una questione di degrado, di periferie dimenticate, c'è anche tanta parte della politica che ancora ha certe idee, anche le esprime liberamente. Ieri ne citavo qualcuno, quindi se anche chi ci rappresenta in questo modo, difficile, no? Cambiare certi retaggi maschilisti, macisti. Comunque adesso parliamo di politica, ci avviciniamo infatti sempre di più al momento in cui torneremo a votare, ma in che senso? Naturalmente mi riferisco al 20 e 21 settembre, giornate in cui, come sapete, in concomitanza con le elezioni regionali e comunali, vi ricordo che si vota in 7 regioni, Veneto, Campania, Marche, Liguria, Toscana, Puglia e Val d'Aosta, dicevo, in concomitanza si vota per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Vi ricordo, per darvi alcune indicazioni pratiche, che le urne saranno aperte domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, mentre lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15 dovete andare naturalmente con un documento di riconoscimento personale e la vostra tessera elettorale. Vi risparmio il testo del referendum con tutti i nomi, codici eccetera eccetera, per dirvi in sintesi, l'altra volta ve l'ho letto, ma in definitiva, se si risponde sì a questo quesito del referendum si sostiene il taglio dei parlamentari, con il no si è contrari al taglio e dunque si vota per il mantenimento dello status quo. Tutte le forze politiche presenti in Parlamento, che pure hanno votato nei mesi scorsi quasi all'unanimità per il taglio, per la riduzione, sono però attraversati costantemente da tormenti, da divisioni. Sapete che è stato un cavallo di battaglia molto forte del Movimento 5 Stelle, che è compatto sul sì, anche se una piccola fronda c'è. Gli altri partiti, la posizione ufficiale del PD è per il sì, anche qui però non mancano i contrari. Fratelli d'Italia è per il sì, la Lega anche, ma aumentano man mano nei giorni dissidenti. Forza Italia e Italia Viva hanno dato, diciamo, libertà di voto, libertà di coscienza. Quali sono i possibili esiti? Se vince il no, resta tutto uguale. Se vince il sì, i parlamentari passeranno dagli attuali 945 a 600. Nello specifico, i deputati della Camera si ridurranno da 630 a 400, i senatori passeranno da 315 a 200. Quindi, in estrema sintesi, per il sì, quali sono le ragioni di chi vota per il sì? Che ci sono troppi parlamentari, più che negli altri paesi, così col taglio si riducono i costi e si snellisce il lavoro del Parlamento. Per chi vota no, la riduzione è un danno per la democrazia rappresentativa, va a discapito della rappresentatività dei cittadini. Ma sentiamo le ragioni di due esponenti politici che hanno posizioni appunto opposte. Saluto Laura Agea, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera sottosegretaria, e il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. Buonasera senatore. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, io cercherò di non interrompervi, vi do però 2 minuti a testa per la prima battuta e poi altri 2 minuti per ognuno, in modo che io non vi farò domande, voi esponete nel modo sintetico e chiaro e divulgativo il più possibile per chi sta ascoltando le ragioni del sì e le ragioni del no. Inizierei quindi dalla sottosegretaria del Movimento 5 Stelle, Laura Agea. Prego, perché sì? Perché votare sì al taglio dei parlamentari? Perché il prossimo referendum del 20 e del 21 settembre offre la possibilità, l'opportunità di rendere effettiva questa riforma storica per la riduzione dei parlamentari. Una riforma necessaria per poter continuare un processo di cambiamento sostanziale delle istituzioni che non solo diventano più efficaci e più efficienti, ma anche più vicine ai cittadini. Ricordiamo che nella storia sono già 7 i tentativi che sono stati fatti di poter modificare il numero dei parlamentari, nessuno ci è riuscito, oggi abbiamo questa straordinaria opportunità. Lo scorso ottobre il Parlamento ha approvato in via definitiva questa riforma, oggi va confermata con un referendum voluto appunto da alcuni senatori che hanno presentato la richiesta per un referendum confermativo. Noi abbiamo la possibilità veramente di far fare al nostro Paese un salto in avanti per dare un'istituzione, quella parlamentare, che sia più efficace. Non si riduce minimamente la rappresentatività, si dà più forza e più valore alla qualità dei parlamentari, il rapporto con la nazione resta efficace, perché i parlamentari sono investiti di una maggiore visibilità, di una maggiore efficacia, e hanno ovviamente l'obbligo di essere qualitativamente all'altezza della sfida che si pone loro di fronte. Non è vero che le regioni non verranno rappresentate nella loro totalità, anzi verranno ridimensionate delle strutture che oggi rimangono nei numeri della rappresentatività. Oggi, a differenza anche degli anni passati, c'è anche una forma di contatto con i cittadini che è molto più immediata, e quindi è sicuramente non una mancanza di contatto, non è mancanza di rappresentatività, non si tocca la Costituzione, la riduzione dei parlamentari è l'unica cosa che viene formalizzata. Chiaro. E viene resa. Chiaro, sottosegretaria Agea, poi tanto le do ancora altri 2 minuti dopo per una nuova per ribattere. Il senatore Andrea Cangini di Forza Italia, perché lei è per il no al taglio dei parlamentari? 2 minuti. Ma perché tutte le cose che sono state appena dette sono false. Chiederei alla collega del Movimento 5 Stelle di dire una sola ragione concreta, possibilmente di rango costituzionale, per cui il Parlamento dovrebbe funzionare meglio. È vero esattamente il contrario. Oltre 200 tra i più autorevoli costituzionisti, a partire dal Presidente dell'Associazione Italiana Costituzionisti, dicono che il Parlamento funzionerà peggio, il Senato in modo particolare, sarà molto ma molto meno rappresentativo di quanto non sia oggi. Cittadini e territori non avranno più diritto di rappresentanza, il pluralismo ne risentirà, perché in 7-8 regioni i partiti che pure raggiungeranno il 10 o il 15% dei consensi, ma perderanno in termini di coalizioni le elezioni, non avranno neanche un rappresentante in Senato. Io mi chiedo cosa penseremmo se un partito, un movimento politico, per esempio il Movimento 5 Stelle, domani si alzasse e dicesse: abbiamo deciso che per risolvere i problemi della sanità pubblica è opportuno licenziare il 36,5% dei medici. Li prenderemmo per matti. Ecco, la stessa cosa. Io credo che con l'antipolitica e con la demagogia non si possa costruire nulla di buono. Sono 30 anni e tutti hanno le loro colpe, chi più, chi meno, che alimentiamo questo spirito antiparlamentare e antipolitica. Sono 30 anni che legislatura dopo legislatura assistiamo al decadimento della qualità del ceto politico. Io sono la mia prima esperienza, facevo tutt'altro, dirigevo un giornale, avevo una vita piena di soddisfazioni. Mi è stata offerta una candidatura, l'ho accettata sapendo di perdere di credibilità per il solo fatto di entrare in Parlamento. Questo non va bene. Un paese in cui chi entra nelle istituzioni perde di credibilità è un paese che non ha futuro. Questo sarà un voto, quello del 20 e 21 settembre, tra politica e demagogia, tra responsabilità e serietà politica, e quindi il voto no, e demagogia e parlare d'altro, perché questa non è una riforma costituzionale, nel senso che non ha come obiettivo la efficacia, l'efficienza, la maggior rappresentatività dell'istituzione su cui interviene, cioè il Parlamento della Repubblica. Due minuti perfetti anche lei. Allora, di nuovo un altro spazio di due minuti alla sottosegretaria Laura Gea, ricordo del Movimento 5 Stelle, per il sì, poi di nuovo due minuti per il senatore Cangini, poi devo chiudere. Prego, sottosegretaria Gea. Beh, stiamo attribuendo stiamo dando del demagogo a Luigi Einaudi, padre costituente, il quale già all'epoca della costituente parlava di una necessaria sostanziale diminuzione di quello che era il numero dei parlamentari. Il fatto di perdere credibilità solo perché si entra in Parlamento lo attribuisco esclusivamente alla qualità del lavoro prodotto, non assolutamente al fatto di diventare servitori dello Stato. Anche io ho fatto un'esperienza da parlamentare europea, tra l'altro il modello del Parlamento europeo con una rappresentanza che si esplica in una circoscrizione composta da 4 regioni, dalla dimensione di quanto il lavoro efficace che un parlamentare fa può avere una visibilità e dei riscontri positivi su un territorio ben maggiore delle province, delle circoscrizioni provinciali o dove sono eletti i parlamentari della Repubblica. Quindi attribuiamo meriti e demeriti alla qualità del lavoro del singolo e non tanto al fatto di essere veramente rappresentanti delle istituzioni. Il referendum, tra l'altro, è sostenuto da Unida, quindi non propriamente da un demagogo, anche se questa è stata la definizione che ho sentito dare relativamente a chi sostiene il taglio dei parlamentari, Carla Sarre, per fare un altro nome. Cioè, non stiamo parlando propriamente di persone che fanno della demagogia il loro lavoro, anzi stiamo parlando di persone che conoscono assolutamente bene la Costituzione e che parlano tranquillamente di un referendum che non va minimamente ad intaccare quella che è la natura della Costituzione. Nil De Jotti, già Presidente della Camera, sosteneva che il numero della rappresentanza nel Parlamento era troppo elevato, quindi non è il Movimento 5 Stelle. Noi finalmente siamo riusciti ad ottenere che questa riforma si portasse a compimento. Il referendum confermativo renderà attuata quella che è una riforma necessaria che negli ultimi anni tutti in maniera forse demagogica hanno portato avanti come forma appunto di demagogia e non hanno avuto la volontà ferrea di realizzarla. Noi ci stiamo riuscendo, è ben altra cosa. Bene, adesso ancora due minuti per il senatore Cangini, perché appunto ancora per il fronte del no, le altre ragioni? Vuole ribattere? Io resto sbalordito, chiederei l'istituzione di un giurì d'onore presso il Parlamento per valutare la fedeltà storica delle cose appena affermate. Come ha detto l'ex portavoce di Nil De Jotti, si chiama Frasca Porara, lo ha scritto, quella che lei ha attribuito a Nil De Jotti, che Di Maio continua a ripetere, è un falso storico. Nil De Jotti non ha mai pensato che andasse tagliata linearmente la rappresentanza parlamentare, parlava della fine del bicameralismo perfetto, tema su cui io metterei la firma se fosse questa la riforma in questione. Non è questa, invece, purtroppo non è questa. Si sta creando un fronte amplissimo che non si è mai visto nella storia repubblicana, dal giornale di Sallusti alla Repubblica di Molinari al Manifesto, da Angelo Panebianco a Cottarelli a Leu, all'Ampi, a Cassese, a grandi scrittori, gente diversissima. Quando gente così diversa si mette dalla stessa parte in una barricata, è perché c'è in ballo qualcosa di superiore alla fazione, allo spirito di fazione. In ballo c'è la democrazia e la credibilità delle istituzioni e quindi dello Stato. Raccontare il Parlamento della Repubblica come un posto inutile, che più si taglia meglio è, un modo per delegittimare le istituzioni, un modo per superare il Parlamento, cosa che Davide Casaleggio ha detto con grande chiarezza. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è superare il Parlamento e trasferire tutto su una piattaforma web, guarda caso il mestiere che dà proventi importanti alla Casaleggio e associati. Io preferisco la democrazia rappresentativa, non conosco nessuna democrazia al mondo che funzioni sul web, conosco solo democrazie dove la rappresentanza del popolo è affidata ai parlamentari che vengono votati dai cittadini. Io ringrazio molto la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei del Movimento 5 Stelle, Laura Agea, il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini. Avete spiegato bene le vostre ragioni del sì e del no. Adesso gli ascoltatori, insomma, decideranno loro chi li ha convinti di più. Grazie a tutte e due e buon lavoro. Buonasera. Grazie. Buonasera. Allora, ci prendiamo adesso una pausa di riflessione. Avete modo anche di riflettere su quello che avete sentito, visto che il 20 e il 21 si vota. E direi di darci appuntamento a tra poco. Tornerò a Rata con la Folgore perché ho tante altre cose da raccontarvi. Torneremo naturalmente anche sul delitto di Caivano. Oggi sono stati i funerali di Maria Paola. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo o non l'avevo capita, a proposito di una notizia importante, perché Roberta Giordano qui per voi tutte le sere dalle 21 alle 22, anche in questa nuova stagione di Effetto Notte, vi sintetizza all'inizio le notizie più importanti e poi alcune di queste le approfondisce con gli ospiti. Abbiamo parlato ancora, siamo tornati sul referendum sul taglio dei parlamentari che si vota il 20 e 21 settembre prossimi, con le ragioni del sì e del no con due esponenti politici. Adesso invece vorrei tornare sul terribile delitto di Caivano. Oggi ci sono stati i funerali a Caivano, vicino Napoli, di Maria Paola Gaglione, la ragazza di 18 anni, come sapete, che a vedere le sue foto è proprio l'immagine, era l'immagine della voglia di vivere, e la cui esistenza è stata stroncata dal fratello di 30 anni, Michele Gaglione, che non voleva in nessun modo riconoscere alla sorella la libertà di amare chi voleva, in questo caso Ciro, un ragazzo nato donna che però si sentiva e viveva come un uomo di cui lei era innamorata e volevano andare a convivere. Sapete la dinamica del fratello Michele, che con una moto potente li ha inseguiti per 16 minuti sullo scooter a Maria Paola, al suo compagno, e ha scalciato diverse volte perché sono risultate diverse pedate sullo scooter, e poi li ha speronati, e a quel punto Maria Paola è caduta, ha battuto violentemente la testa ed è morta sul colpo. Poi lui, il fratello di Maria Paola, Michele, invece di curarsi della sorella, si è avventato contro Ciro e lo ha mandato all'ospedale. Oggi, dicevo, ci sono stati i funerali. Lui, Michele, si è difeso dicendo volevo darle soltanto una lezione, perché era infetta, cioè ha considerato che il fatto che amasse questo ragazzo nato come donna fosse una malattia, un virus pestilenziale. Adesso è in carcere. Ieri la giudice per le indagini preliminari ha confermato l'arresto con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi. Ha detto esiste il pericolo di recidiva, e ha detto anche la giudice è incapace, Michele Gaglione, di controllare le proprie pulsioni aggressive, dimostra un'accentuata pericolosità sociale, e aveva minacciato più volte Maria Paola e Ciro di morte. Ne voglio parlare con Roberto Russo, che è caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. Bentornato Roberto, grazie di essere qui. Buonasera a voi, buonasera. Roberto, oggi dicevo ci sono stati i funerali di Maria Paola, Ciro ha dato l'ultimo saluto all'obitorio perché era meglio che non fosse presente per le tensioni che ci sono, no? Però ha voluto che si affiggesse un manifesto fuori dalla chiesa. Lui in effetti Ciro ha inviato sostanzialmente due amiche, che io ho anche visto, di Ciro e di Maria Paola, in motorino, che sono arrivate lì fuori la chiesa circa un'ora prima, proprio per non avere problemi, perché sai il Parco Verde è questo rione molto molto degradato in cui tutti si conoscono, e quindi queste due ragazze molto magre, anche loro sono in sella un motorino, un motociclo, hanno ha affisso questo enorme cartoncino Bristol, molto grande, su cui c'erano foto di due ragazzi, della ragazza morta e di Ciro, e c'era questo messaggio con cui sostanzialmente Ciro... Lo leggo, sono proprio quattro sì, righe, certo. Roberto, e scrive Ciro, per dare il messaggio di addio, insomma, Maria Paola, correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te, ti amerò oltre le nuvole, Ciro. Questo era il manifesto. Sono parole strazianti, soprattutto se teniamo conto del, come dire, del luogo e dell'estrema, come dire, giovinezza delle due ragazze, di Maria Paola e di Ciro, insomma, che, come hai ricordato, è nata donna. E da qui, diciamo, quello che viene considerato uno scandalo in certi ambienti. Va considerato che cos'è Caivano e soprattutto cos'è Parco Verde. Parco Verde è veramente una realtà molto degradata, è diventata negli anni una piazza enorme di spaccio di ogni tipo di droghe, e va detto per correttezza e per completezza di informazioni che lo stesso Ciro ha avuto problemi legati alla droga, problemi giudiziari, attualmente è sottoposto ad obbligo di firma. Quindi perché dico questo? Perché la versione che danno i familiari di Maria Paola è che il fratello non avrebbe visto di buon occhio questa relazione, questo amore, insomma, che era un amore, anche perché Ciro obiettivamente, onestamente, aveva grossi problemi familiari e dei problemi personali con la giustizia. È chiaro che questa è la versione che attualmente, come dire, difensiva della famiglia, no? Ma nulla toglie alla assurdità, certo, all'enormità del gesto, all'inseguimento, come tu hai ricordato, a lungo nelle campagne di notte attorno a Caivano, ai calci dati allo scooter delle due, quindi questo fa veramente rabbrividire. Del resto, oggi è capitata una cosa particolare, che noi del Corriere, sono andato proprio io a seguire i funerali, che noi del Corriere abbiamo registrato e che domani si troverà sul Corriere Mezzogiorno, e che una ragazza amica di Maria Paola, una ragazza che si chiama Noemi, ha detto di chiamarsi Noemi, ha dichiarato pubblicamente che anche lei ha fatto un outing pubblico, che anche lei è gay ed ama una ragazza a sua volta, e ha confermato, perché era una compagna di scuola di Maria Paola, ha confermato che Maria Paola le avesse più volte raccontato delle difficoltà e di come la sua famiglia contrastava l'amore con Ciro. Quindi abbiamo assistito a questo outing davanti alla chiesa poco prima che arrivasse il feretro di Maria Paola. È una realtà, ripeto, molto difficile, quella di Parco Verde, dove è molto degradata, dove la dispersione scolastica è altissima, c'è un tasso di sottocultura veramente preoccupante, ed è una realtà molto abbandonata. Un'altra cosa che volevo dire, che mi ha colpito, è che il parroco di Parco Verde, Don Maurizio Patriciello, che è molto noto per le sue battaglie sull'ambiente, diciamo che è il parroco della Terra dei Fuochi, è noto per questo, ed è il parroco che ha celebrato tra l'altro i funerali della povera Nadia Toffa, che conosceva benissimo, oggi ha annunciato che andrà via dal Parco Verde, perché ha detto testualmente che in quel parco, in quel rione, hanno vinto i boss, sostanzialmente accusato in generale le istituzioni di aver lasciato soli gli abitanti di quel parco, soli nel degrado da anni, e diciamo che quello che è avvenuto è sicuramente anche frutto di questo degrado culturale, umano, sociale che affligge questo anche quartiere. Se Roberto Russo, ne abbiamo parlato ieri e l'hai descritto benissimo tu, la situazione sì, di questo territorio, no? Così sì, dimenticato, degradato, però è anche vero che questo contesto particolare ha accentuato però una cultura molto diffusa, che è quella della misoginia, sì, del machismo, del maschilismo, dell'omofobia, no? Tutti questi valori di violenza, di sopraffazione, sì, nei confronti delle donne o di chi si ritiene, sì, diverso dai propri, non si conforma ai propri diktat. È fuori di dubbio che ci sia una sorta di, come dire, di allergia, tra virgolette, a tutto quello che non rientra in certi schemi. Del resto, se voi anche la mentalità sopraffattiva della criminalità organizzata non prevede che si possa andare oltre quelle che sono, oltre quelli che sono gli schemi tradizionali del rapporto uomo-donna, ed è chiaro che questo tipo di sottocultura aiuta ancora di più un atteggiamento omofobo che sicuramente è presente in quel quartiere, che sicuramente è presente in tanta parte del territorio italiano, anche di altre zone d'Italia, e che è sicuramente alla base di questa tragedia. Qualcuno provava a chiedersi, ma se provocatoriamente qualcuno lo diceva oggi, ma se la povera Maria Paola fosse stata fidanzata con un boss, quale sarebbe stata la reazione della famiglia? Ecco, è una domanda retorica, perché molti credono che non avrebbe avuto reazioni negative, insomma, in quel caso questo è molto, molto grave. Certo. Molto Roberto, sì, Russo, ricordo che per Paola, le amiche di Maria Paola avevano la foto sulla maglietta, no? Sì, sì, funerale, è stato commovente, perché ci sono state decine di amiche. Tieni presente, tu lo saprai senz'altro, che Maria Paola lavorava, no, prendeva lezioni in una scuola per il maquillaggio, per l'estetica del corpo, perché cercava di darsi un futuro così, e quindi aveva tante di queste amiche, anche loro delle ragazze veramente molto dolci, che oggi si sono sorrette a vicenda, le abbiamo viste in questa chiesa abbracciate, le abbiamo viste con queste magliette bianche con la immagine stampata di Maria Paola. E questa è la parte bella di Caivano, il resto purtroppo è quello che ci ha raccontato. Questo è quello che abbiamo detto. Grazie Roberto Russo, ricordo caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, grazie davvero Roberto e buon lavoro. Buon lavoro a voi, buonasera. Ciao, a presto, ciao Roberto. E c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Parliamo adesso dell'ordinanza del presidente Cirio. Vi ricordate, ne abbiamo parlato qua venerdì scorso, qui effetto notte, era in collegamento il presidente della regione Piemonte Cirio, quando appunto aveva emesso l'ordinanza sulla misurazione della temperatura agli studenti all'entrata della scuola. Cioè, nonostante il governo abbia deciso che questa incombenza spetta alle famiglie di misurare la temperatura ai figli prima che vadano a scuola, Cirio aveva emesso l'ordinanza invece che rendeva obbligatorio per le scuole misurare la temperatura. C'erano state forti polemiche, in particolare il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte, Fabrizio Manca, aveva detto che l'iniziativa era tardiva, perché avveniva 4 giorni prima della ripartenza della scuola, inappropriata, ingenerava confusione, eccetera. E già il Ministero dell'Istruzione con l'amministrazione Lina ventilava nei giorni scorsi, appena avvenuta questa ordinanza, che avrebbe impugnato l'ordinanza del presidente Cirio, perché Azzolina l'aveva definita un'ordinanza intempestiva e inopportuna. E oggi è arrivata l'ufficialità, questa polemica, questo braccio di ferro tra governo e Regione Piemonte è finita davanti al TAR, è stata impugnata, insomma, dal Ministero dell'Istruzione. E allora di nuovo con noi Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, buonasera, grazie di essere qui presidente. Grazie, buonasera a tutti. A questo punto quindi che cosa fa? A questo punto resistiamo, forti delle nostre motivazioni, però vorrei solo fare un chiarimento. Sì. L'ordinanza che noi abbiamo fatto in Piemonte non impone alle scuole l'obbligo di misurare la febbre, impone alle scuole l'obbligo di verificare al mattino se i genitori hanno effettivamente misurato la febbre a casa. Quindi noi abbiamo preso l'ordine del governo che dice famiglia misura la febbre, non fidandoci del fatto che poi tutti lo facessero, anche alla luce della presenza di tanti negazionisti che dicono noi non la misureremo perché il Covid non esiste, è un'invenzione, noi non ci siamo fidati e abbiamo detto non possiamo rischiare, allora mettiamo un controllo obbligatorio. Quindi la scuola decida il modo può essere il diario, l'autocertificazione, la chat della classe, ma la scuola deve verificare che i genitori abbiano fatto il loro dovere. Quindi in pratica però la scuola è obbligata, una volta che le famiglie certificano su questo diario che lei aveva proposto, comunque è obbligata poi a misurare quando arrivano gli studenti comunque la temperatura, quindi un obbligo. Solo se non ce l'hanno. Solo se non hanno questa certificazione. Esattamente. Ah, sul diario. Se i genitori non hanno adempiuto al loro dovere previsto dal governo e non l'hanno certificato, allora la scuola è via residuale è obbligata a misurare la febbre, perché il pericolo e il rischio di avere un bambino con la febbre a scuola è un pericolo troppo alto che non possiamo correre per la scuola stessa e soprattutto per i nonni, che sono poi quelli più vulnerabili con cui il bambino trascorrerà la sua parte principale della giornata a casa. Io l'altra volta le avevo dato ragione dicendo che però insomma era un po' tardiva, nel senso che partiva 4 giorni prima e quindi metteva forse un po' in difficoltà le scuole del Piemonte, anche se io direi che forse sarebbe, dico, questa è la mia personalissima opinione, trovare una mediazione e diciamo misurarla sia a casa, perché come dice lei, tra genitori sbadati magari di fretta che vanno al lavoro, oppure i negazionisti magari non misurano la temperatura, e dall'altra però quindi misurarla sia a casa sia alle scuole, piano piano dotarsi di un termoscanner, insomma, perché è giusto effettivamente che anche la scuola poi faccia una verifica ulteriore, però questo richiederà dei tempi, immagino, piano piano ci si aggiusterà. Intanto... Sì, è per questo che l'ordinanza ha una raccomandazione che va nella direzione di quello che dice lei, scuole attrezzatevi, ma visto che non siete attrezzate perché nessuno vi ha messo nelle condizioni di attrezzarvi, noi vi diciamo quantomeno verificate che i genitori lo abbiano fatto e in via residuale gliela misurate voi, perché c'è anche un altro principio. Il governo italiano ha obbligato tutte le aziende, tutte le fabbriche a misurare la febbre a quelli che vanno a lavorare, altrimenti non li fa entrare. Tutti gli uffici pubblici, tutti i comuni, tutti gli studi professionali, tutti gli ospedali. Ed è paradossale che dove comanda lo Stato, cioè nella scuola statale, non si misuri la febbre a chi entra, proprio in un luogo così delicato come la scuola. Quindi insomma lei resiste, Presidente Cirio, appunto vediamo un po' come finisce questo braccio di ferro lì al TAR, poi ci aggiorniamo alla prossima puntata quindi. Sì, io resisto con rispetto istituzionale, perché sulla scuola non bisogna fare polemica, sulla scuola bisogna risolvere i problemi. Come è iniziato in Piemonte per chiudere la scuola, Presidente Cirio? La scuola è iniziata bene perché per fortuna nella scuola ci sono dirigenti, insegnanti, bidelli che sono di gran lunga più efficienti e pronti ad operare che non tante burocrazie ministeriali. Bene. Il problema sono le cattedre. Noi abbiamo iniziato il Piemonte con 20.000 cattedre vuote. E questo per una scuola che inizia a settembre sempre e che quindi era preventivabile anche a giugno è veramente un interrogativo che io pongo e che pongo al Paese. Anche se lei sa che è un problema annoso questo delle cattedre, però magari ne riparliamo prossimamente e vediamo come procede nei prossimi giorni. Va bene? Va bene, grazie. Grazie Presidente Alberto Cirio. Sì? Grazie a voi, buona giornata, grazie, buona serata. Anche a lei, buon lavoro e buona continuazione. Ora invece ci spostiamo all'estero, in altri orizzonti, perché è stata siglata alla Casa Bianca una firma, un accordo tra Israele e Emirati e Bahrain, con davanti Trump, che ha sigillato questo accordo, il presidente americano Trump, che ha parlato di un accordo storico, di una svolta in Medio Oriente. Allora voglio chiedere effettivamente, in sintesi, la portata effettiva di questa svolta, di questo accordo, a Giuseppe Dentice, che è analista dell'ISPI per l'Osservatorio sul Medio Oriente. Buonasera Dentice e benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Quindi se dovesse spiegare in breve l'effettiva portata, significato, risultati di questo accordo. Beh, possiamo dire innanzitutto che l'accordo a suo modo è storico, giustamente come lo rivendica Trump, perché mette di fronte Israele e alcuni paesi arabi che sono, tra le altre cose, dei partner storici degli Stati Uniti. È importante perché non è un accordo di pace, innanzitutto perché sono paesi che non hanno mai fatto una guerra contro Israele e non sono stati mai in guerra per vari motivi con Israele. È importante dal punto di vista storico perché politicamente pone insieme Israele e alcune delle più importanti monarchie del Golfo, non direttamente l'Arabia Saudita, ma indirettamente lo è, interessata per via del ruolo del Bahrain e degli stessi Emirati Arabi Uniti, in una sorta di fronte regionale con in mezzo anche gli Stati Uniti, attore principale, come forza motrice di un nuovo Medio Oriente. Almeno questa è l'idea, un'idea che dovrebbe andare quindi a costruire una sorta di nuovo sistema regionale per contenere le spinte di quei paesi non allineati come sono l'Iran, ma anche la stessa Turchia, che è sì un paese all'interno dell'alleanza NATO, ma è un paese che comunque in queste settimane, e lo abbiamo visto anche noi diciamo italiani, ma noi europei all'interno delle dinamiche del Mediterraneo orientale, è un paese molto attivo, molto influente e anche molto importante in un'ottica Però Dentice, mi pare che ci fosse stato un breve accenno anche alla soluzione di due paesi per Israele e Palestina, o ho visto male nell'accordo? C'era un breve accenno a questa cosa? L'accordo, diciamo, come c'entra anche la questione israelo-palestinese, ma in realtà non viene direttamente tirata in ballo, perché i palestinesi non sono parte integrante di questo accordo, anzi non sono minimamente considerati. Quello che in realtà si dovrebbe mettere in risalto è proprio questo aspetto, che la questione israelo-palestinese viene sostanzialmente sacrificata all'altare degli interessi, diciamo così, geopolitici della regione e di alcuni attori della regione, e allo stesso tempo si allontana quella che è una prospettiva di un processo di pace medio orientale, così come era stato dal 67 ad oggi, ossia con l'idea dei due stati. Perché in una situazione come questa la fazione palestinese, diciamo così, è sempre più screditata e con un consenso inferiore sia sul piano arabo sia su quello internazionale. Quindi è difficile pensare che questi accordi trilaterali, diciamo così, possono aiutare a favorire una diciamo ripresa del processo di pace medio orientale. Chiarissimo, quindi in questo senso negativo, insomma, come prospettiva, purtroppo, insomma, visto che è una cosa che... Diciamo che in questi casi è sempre difficile fare previsioni, però se si può azzardare una previsione è quella che è molto difficile pensare che questo tipo di accordi possa rilanciare in questo senso questi negoziati, la questione e i negoziati tra israeliani e palestinesi. Chiarissimo, la ringrazio anche per la chiarezza, Giuseppe Dentice, ricordo analista dell'ISPI per l'Osservatorio sul Medio Oriente. Grazie e buona serata, Dentice. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.